apartment chart. Holy Almighty, buonasera. Hey, on the apartment chart. Ehi, fammi, fa un po' come vuoto, mezzo chilo di spaghetti, arriullo. Mezzo chilo? Io di mantegna. E se no, cazzo, il vento mi ci porta via, Giovanni. Ma hai ragione, perché quando a riempire quel sacchetto che c'hai, ce ne vuole. Abbiamo altre mai l'appetito. Aspetta che ti voglio salutare una persona, Giovanni. Ciao Giovaria. Ciao anche a te, però non ti ho riconosciuto, Aio, illuminami. Ti illumino? Io vado veloce a 240 km orari. Cioè, tu l'hai detto. Ehi, sei davvero Mattesi, dai. No, comunque, buonasera, mi hai sentito. Tutto bene, sì? Sì, tutto bene. Dai, sono Tonino Giovaria, che cavolo, che non mi conosci più, Ehi, vabbè. Non sono riuscito ancora a capire, però va bene ugualmente, dai. Ehi, Tonino Kawasaki, va bene, dai, non proseguo. Ciao Giovanni. Ciao Tonino. Certo, adesso sono arrivato benissimo. Certo, dopo tanto ti sei fatto sentire. Ehi, sto sempre lavorando, Giovanni. Anche se in pensione va a lavorare lo stesso. Va bene, almeno ci fa un po' di dollari, tanto da sono tutti i rilassa, Ha detto che non la cassai, sono in rampa di sigaretti. contento tutti. Aspetta un attimo, tuo marito, che sta andando via a Torino, che vi apro la porta. Ia, vai. Giovanni. Emanuele. Sì, se n'è andato, mi è venuto a trovare. Ogni tanto mi fa piacere, dai. Cosa mi fare? A me la faccio compagnia per un po'. Io è mezz'ora fatto. Sto guardando intanto la televisione in sala, mi ha chiamato, mica sto passando. E passa. Amico, sei una facciata di lì, il terrazzo, in sala, faccio poi questa la poltrona, e dice, a mai della cappaccia, mi gioco pure di dormire della candoria. Ma perché i soldi non veniva oggi era vento e nuvoloso. Io sono uscito alle 2:30. Infatti solo ogni tanto gli esci a l'usore, però non finirà freddo, là. E per cui da buona tu mi chiamami sempre il cameretto e attendo la panica, giusto come della televisione, e mi vado a rubare a chi l'ha chiesto, ha detto solo a te, e così via, e io mi va, ma si va avanti. Cosa arriva? Si va avanti, sì, Giovanni, cosa arriva? La vita è quella lì, non bisogna, non troviamo più la vita. Infatti, ma noi andiamo sull'altro, deve essere sentita a farmi compagnia un'oretta. Ti saluto, Manuel, ci sentiamo, dai, buon proseguimento di serata. Sì, ya, tranquillo Giovanni, già ci vediamo là quando siamo di riposo. Ok, ciao Giovanni, buona serata. Ok, ciao Chiso. Yo, talking about your ghetto. E beh, Lillo, buttaci la pasta che è pronta. Lillo!